Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Succede molto spesso, e oggi più che mai, che la musica incontri la moda. Gli stilisti si contendono musicisti e frontman dei gruppi più famosi come testimonial, e loro in cambio sono ben felici di diventare, grazie al loro stilista di riferimento, dei veri e propri trendsetter. Madonna con Jean-Paul Gaultier, che ha disegnato per lei il celeberrimo reggiseno con le coppe a cono del tour di Like a Virgin. Le scarpe platform senza tacco del giapponese Noritaka Tateana, oggettivamente improbabili per chiunque, ma non per Lady Gaga. Il total look Fred Perry stile collegiale per gli inglesissimi Blur. E poi ancora vestitini a veli, hot pants e canotte firmate da Dolce & Gabbana per Kylie Minogue. Oggi, ai Magnifici Destini, vogliamo raccontarvi la storia della pantera nera del rock, Skin. Lei con la moda ha davvero un rapporto speciale. Hello, how are you doing? Frontwoman degli Scancanesi, grintosissima, conturbante e iconica con la sua testa calva, Skin seduce uomini e donne, si diverte a provocare e graffia ogni volta che apre bocca, sia per parlare che per cantare. La moda mi piace, ma quello che conta è potermi vestire come cavolo mi pare. È un abito che mi attrae molto, ma lo voglio interpretare in modo totalmente indipendente. I fotografi la adorano. Per Mario Testino e Nick Knight è una musa, altissima e sottile, ricorda per corporatura ed eleganza una gazzella. Non è aggressiva come ci si aspetterebbe vedendola sul palco. Nella vita e nelle interviste è sulle sue, quasi timida, di certo non sprezzante. Tantomeno sembra arrabbiata, come se tutta quella furia davanti a un microfono fosse sufficiente a placare il suo animo inquieto per un bel po'. È mondana Skin, va alle feste, incontra personaggi del jet set, viene immortalata mentre chiacchiera con Marta Marzotto che si toglie la collana che porta e gliela regala. Le piace indossare quello che Liborio Capizzi crea per lei. L'ha conosciuto qualche anno fa, quando lui lavorava per Gianfranco Ferré e lei aveva sfilato per il marchio. Ma i suoi primi amori, sempre nel campo della moda, sono Alexander McQueen e Philip Tracy, entrambi inglesi doc proprio come lei, entrambi originalissimi. Con la morte di Alexander si è creato un vuoto nella moda. Lui era giovane, aveva già fatto grandi cose, ma ne aveva ancora così tante da fare. Quando ho sentito la notizia della sua morte, ho pianto moltissimo. È stato davvero doloroso. Skin come pelle, una pelle talvolta ruvida, talvolta morbida e liscia al tatto, ma anche una pellicola per proteggersi dall'esterno. Skin, lei, la pantera nera, è tutto questo e molto altro. Di certo ha saputo conciliare un aspetto e un nome d'arte fondendoli in modo così perfetto che non si sa quale sia stata la prima scelta. Lo pseudonimo o l'idea di rasarsi completamente la testa? Quando recentemente mi sono fatta crescere i capelli è stata una sorpresa per tutti. Ma sai come fanno gli uomini quando lasciano una ragazza? Di solito smettono di radersi. Ma a me è capitata una cosa analoga. Avevo una relazione che poi è finita. Ho smesso di tagliarmi i capelli e ho scoperto che mi piacevo. Ho anche scoperto che in quel modo potevo nascondermi ed ero meno riconoscibile. Potevo andare a fare shopping senza che nessuno mi fermasse per la strada. Prima mi vedevano di spalle e dicevano: guarda, c'è una tipa nera con la testa calva, deve essere skin. 1967, sud di Londra. Il quartiere di Brixton è l'immagine della città inglese che ti aspetti. Grandi viali e case in stile vittoriano. D'altronde tutti i palazzi sono stati costruiti nell'Ottocento, prima era aperta campagna. Il caso vuole che qui siano nati o abbiano vissuto molti grandi musicisti, tra gli altri David Bowie, Paul Simonon e Mick Jones, rispettivamente bassista e chitarrista dei Clash, e il duo house Basement Jaxx. Brixton è multietnico. Si concentra qui gran parte dell'immigrazione di origine o discendenza centro-sudamericana e il quartiere è considerato, anche se in modo non ufficiale, la capitale della comunità caraibica. Anche la piazza centrale Windrush Square è stata chiamata così nel 98 per ricordare il cinquantenario dell'approdo della Empire Windrush, prima nave che ha portato in Inghilterra un numero consistente di immigrati. Skin respira da subito la contaminazione e il melting pot e ha molti amici giamaicani. All'anagrafe i suoi genitori le hanno dato il nome di Deborah Ann Dyer, ma guai a chiamarla così. Dovete chiamarmi Skin se volete che vi risponda. Mi chiami Deb, ma io non ti rispondo. Comunque i miei amici non mi chiamano né Deb né Skin, mi chiamano Skinny. E questo è il mio vero nickname. Io mi vedo come un artista più che come una musicista. Non solo perché suono la chitarra peggio di un cammello sordo, ma perché penso che essere in una band richieda conoscenze molto più ampie di un semplice scrivere canzoni e cantare. Bisogna immergere le dita in altre forme d'arte, come il cinema, teatro, libri. Solo così si può creare qualcosa di meraviglioso, facendo scontrare tutti gli ego di chi fa parte della band. A 45 anni compiuti, Skin è in forma come una ragazzina. Anzi, a dirla tutta, sono molte le ragazzine che pagherebbero per avere un corpo come il suo. Altissima, slanciata, tonica, con un volto che non invecchia mai. Quando le chiedono quale sia il suo segreto, risponde con ironia, prendendo un po' in giro tutti quelli che continuano da anni a farle sempre le stesse domande. What is it with you never get old? Is it a special formula you have? Bevo una bottiglia di sangue di serpente ogni mattina. Tutta l'infanzia Skin la passa a Brixton. Vive un insieme di culture che le apre la mente, incontra amici bianchi e di colore. Scopre presto come sia facile, quando si vuole, fare delle differenze una ricchezza e della contaminazione una chiave di lettura della vita. I suoi amici, siccome corre veloce, la chiamano Lippy, il leone. Suo padre è fuori casa tutto il giorno perché cerca di mantenere moglie e quattro figli con tutti i lavoretti saltuari che trova. Sua madre è nera, di origine giamaicana, e insegna a lei e ai suoi fratelli cosa significa essere orgogliosi delle proprie radici. Ero un po' spaventata da lei. In qualche modo era molto violenta, perché la violenza era quello che aveva imparato in Giamaica. Lei e papà litigavano spesso. Papà tentava di farsi stirare le camicie e di farsi rimpinzare, ma lei si opponeva ogni volta. Ho imparato da lei a dire di no. Davamo tutti una mano in casa, per forza. I miei fratelli erano gli unici tra i loro amici che sapevano stirare. E lo facevano. Sono sempre stata trattata davvero con parità. È così che ho imparato, fin da bambina, ad avere consapevolezza di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. Penso che tutto questo sia politico. La maggior parte dei tuoi comportamenti, di come sei e di quello che fai, è un atteggiamento politico. C'è politica nelle relazioni e nei luoghi di lavoro, ovunque. I fratelli Dyer crescono indipendenti e capaci di prendere decisioni con la loro testa. Hanno tutti, maschi e femmine, le stesse opportunità perché la mamma li ha educati così, raccontandogli ogni giorno come la politica si faccia nel quotidiano. Nel frattempo, però, la politica ha cominciato a farla anche a livello istituzionale. Consiglio di Lambeth, capo del Dipartimento dell'Ambiente e commissione consultiva di polizia dopo i tumulti di Brixton. Li vive anche Skin, questi tumulti. Siamo nel 1981, a 14 anni. La Thatcher è al potere e i poliziotti invadono il quartiere pieni di odio razziale. Brixton, per 4 lunghi, interminabili giorni, è messa a ferro e fuoco. Gli scontri tra le forze dell'ordine e gli immigrati sono violentissimi. Ci sono numerosi morti e feriti tra gli abitanti e le case e i negozi vengono distrutti in modo così atroce che Brixton diventa il simbolo della resistenza della comunità black. Anche se sei ancora una ragazzina, a tutto questo non puoi rimanere indifferente, te lo porti dentro per sempre. Ed è agghiacciante leggere i versi di quello che sarà un singolo tratto dal primo album degli Skankanensi, Little Baby Swastika. Chi ha messo la piccola swastika sul muro? Non era molto alto, non può aver avuto più di 4 anni. Gli insegnate da piccoli, così innocenti, così giovani. Fatti così dolcemente, cresciuti nel vostro veleno. Brixton insegna a Skin ad avere una coscienza politica, ma le insegna anche ad amare la musica. Fin da piccola frequenta infatti un club per anziani, dove vanno prevalentemente i neri. I miei nonni ci andavano sempre. E ci andava spesso anche Muhammad Ali. Ho molti ricordi legati a quelle stanze. Io e gli altri ragazzini ce ne stavamo seduti sulle scale e guardavamo le persone che se ne stavano in pista e strettissime ballavano il reggae o lo ska. Era la musica delle mie origini. E me la portavo dentro insieme a tutta la musica che mi faceva ascoltare mia madre. La sua preferita era Dionne Warwick. Alcuni dei brani di Dionne Warwick, icona black, sono famosissimi. Per esempio Raindrops Keep Falling on My Head, una vera e propria colonna sonora dell'adolescenza di Skin che la mette su di continuo sognando un giorno di diventare come il suo mito. Black Power, un quartiere difficile in cui le questioni in sospeso continuano a ribollire. Inevitabile che Skin impari ad avere la pelle dura. Si rade la testa come fanno i ribelli degli anni 70, si mette pantaloni da uomo e comincia a scrivere testi molto politici, arrabbiati, profondi, che porta in scena quando canta con la band scolastica di Brixton. La sua voce è già impressionante, aggressiva e melodica allo stesso tempo, potente, capace di passare da un registro all'altro lanciando un'impronta indelebile nella testa di chi l'ascolta. Penso che tutto nasca dalla musica e dal pubblico. Io ci metto la mia chimica e la mia energia. Cerco di donarla a tutti e, come un boomerang, farla ritornare a me come una cosa reciproca. Perciò, beh, godetevela. Skin frequenta la Teesside University di Middlesbrough, facoltà design di interni. Intanto, sempre di più, vuole cantare. Nel 93 incontra per la prima volta l'uomo che rappresenta il suo primo magnifico destino. Si chiama Martin Kent, ma tutti lo conoscono come Ace, il chitarrista degli Skankanensi. Quando io e Skin ci siamo incontrati abbiamo capito subito che tra di noi c'erano buone vibrazioni. Avevamo una certa sintonia e insieme spaccavamo. Certo che non ci saremmo mai aspettati che sarebbe successo quello che invece è successo. Anche Ace è inglese come Skin, ma di Cheltenham, una città termale del Gloucester. La sua passione coincide con il suo lavoro. Fa il chitarrista già da tempo in formazioni più o meno famose nella zona di Londra dove si è trasferito e gli ingaggi gli bastano per vivere. Skin è per lui una folgorazione. Quando la sente cantare resta senza parole. Lei in questo momento fa parte di una band in cui milita anche Cass, talentuoso bassista, ed è così che i tre, nel 1994, si uniscono negli Skankanensi, a cui si aggiunge il batterista Robbie Friends, presto sostituito da Mark Richardson. Penso che i Skankanensi, a livello musicale, abbiano fatto da ponte tra gli anni 90 e il nuovo millennio. Di certo però siamo stati più famosi negli anni 90. Siamo tutti legati da una relazione speciale. proprio perché abbiamo vissuto insieme il successo. Ci piace sperimentare, provare cose nuove, sfidare le mode. Insomma, essere noi stessi, indipendentemente da quello che pensa la gente. Skunka Nancy, un nome duro, potente, aggressivo, che riflette perfettamente il carattere dei suoi componenti e la musica che amano, skin in testa. Skunk significa puzzola, ma in slang anche cannabis, mentre Anansi è un'entità spirituale a forma di ragno che appartiene alla tradizione religiosa del Ghana e che in Giamaica è uno spirito maligno, metà uomo e metà ragno. Una fusione di rock, funk e metal. Quando appaiono sulla scena, gli Skunka Nancy sono diversi da qualunque altro gruppo. Il primo singolo non proprio ufficiale è quel Little Baby Swastika, così pregno delle storie di Brixton, che fa leva su un'energia alla Rage Against the Machine. Risultato? Subito un successo. Gli Skunka Nancy cominciano a tenere una serie di concerti allo Splash Club di Londra, mandando in visibilio gli spettatori che vedono e soprattutto sentono qualcosa di totalmente inedito. La piccola casa discografica One Little Indian Records, attenta e lungimirante, li mette sotto contratto e li fa debuttare ufficialmente nel marzo del 95 con Selling Jesus, dal contenuto controverso, e con un balzo nelle classifiche inglesi che comincia l'ascesa al successo degli Skunka Nancy. Tutti noi soffrivamo di quella che si chiama sindrome di Peter Pan. Ci cullavamo in una comoda infanzia prolungata. Stare tra noi era come stare in una grande famiglia. Quando sei un musicista rock è molto facile farlo. Ci siamo divertiti da morire. I magnifici destini. Ai Magnifici Destini siamo a Londra nel 1995 ed è appena uscito l'album Paranoid and Sunburnt, il debutto degli Skunka Nancy guidati dalla nostra protagonista di oggi, Skin. Altissima, statuaria, ruvida e aggressiva in apparenza, timida e riservata in privato, la giovane di origine giamaicana, nata e cresciuta nel quartiere multietnico di Brixton, sud di Londra, ha imparato presto a rendere politico ogni suo comportamento. Normale che questo bisogno di raccontare una realtà in cui c'è ancora molto da fare per i diritti e l'uguaglianza si rifletta nella rabbia dei suoi testi. Se c'è una cosa che non mi piace è l'eccessiva semplificazione dei testi, dei concetti. Va bene farsi capire, ma bisogna mantenere una profondità di indagine anche nella scrittura musicale. In genere i brani musicali vengono semplificati per arrivare meglio alla gente. Ma non credo che questo sia così giusto. Non credo che tu sia autorizzato a scrivere cazzate solo per il fatto di essere una rock star. Non è una che le manda a dire, Skin. Icona gay e femminista, ha fatto della sua immagine un veicolo per le battaglie che da sempre combatte. C'è tantissimo da fare. E non si può usare la musica solo per il ritmo o la melodia. Non è giusto passare contenuti vuoti. Io adesso sto lavorando con un'organizzazione contro l'infibulazione e altre torture che vengono ancora inflitte alle donne in tutto il mondo. I problemi sono davvero dappertutto e cerco sempre di parlarne nelle mie canzoni. Skin, voce e chitarra. Cass, seconda voce e basso. Ace, chitarra e cori. Mark Richardson, batteria. Gli Skunka Nancy sono una delle band che segnano la storia della musica degli anni 90 e 2000. Dopo Paranoid and Sunburnt, per certi versi ancora un po' ingenuo, esce Stoosh, pubblicato nel 96, che in giamaicano significa incompleto. Quasi una premonizione del successo che è già arrivato, ma non è ancora compiuto. Skin è l'anima del gruppo. La sua voce a tratti dura e cruda, a tratti soffice e delicata, rapisce al primo ascolto. Il rock elettronico si sposa a meraviglia con atmosfere che tendono al malinconico. Il basso di Cass è prominente, quasi ai livelli della chitarra. Si va da singoli come Yes, It's Fucking Political, potente e incendiario, a ballate supportate dai violini come Infidelity, Only You. Il successo sia di critica che commerciale è incredibile. Intorno agli Scancanensi si è creata attesa, una curiosità alimentata anche dalla loro indimenticabile apparizione in un film forse sottovalutato, e certo di nicchia, che senza dubbio ha lasciato il segno. La regista è Kathryn Bigelow, il secondo magnifico incontro del destino di Skin. Lavorare con Kathryn è stato incredibile. Lei è una donna pazzesca. Sa sempre cosa fare, ha tutto sotto controllo ed è una grandissima artista. Sono stata molto felice per lei quando ha vinto l'Oscar per The Heart Looker. Già, un premio Oscar. Ad oggi Kathryn Bigelow è stata la prima e unica donna a vincerlo come miglior regista. Una cosa che per Skin, femminista convinta, rappresenta un enorme orgoglio, non solo personale, ma di genere. Nata a San Carlos, California, nel 51, la Bigelow, durante gli studi d'arte, si è trasferita a New York. Erano gli anni 70 e la ragazza ha vissuto tutto il fervore delle avanguardie. A suo agio con i film d'azione, ha cominciato con qualche cortometraggio alla fine degli anni 80, per poi girare nel 91 Point Break, avventura ad alta tensione fatta di inseguimenti e rapine in banca, che ha riscosso un successo notevole. Kathryn Bigelow è stata sposata con James Cameron, il regista di Colossal che ha stracciato ogni record con Titanic e Avatar. È stato lui a scrivere con lei e coprodurre Strange Days nel 95. Un avvincente racconto cyberpunk nel quale i contenuti morali sono declinati in salsa apocalittica. Quando ho letto il copione, wow, senza parole. Era tosto, crudo, profondissimo. Ho detto immediatamente di sì, perché parlava di temi a cui io tengo moltissimo. La storia è questa. Negli ultimi giorni del XX secolo, Los Angeles è sconvolta dai disordini scoppiati in seguito all'uccisione del rapper nero Jericho One, leader del movimento per la difesa dei diritti della popolazione di colore. L'atmosfera è di terrore collettivo per il Millennium Bug, il completo reset dei sistemi informatici che, secondo alcuni, avrebbe provocato un collasso dell'economia mondiale. Lo Squid, una specie di nuova sostanza stupefacente, consente di rivivere esperienze di vita altrui, registrate da un dispositivo collegato alla corteccia cerebrale. Tutto il film sembra a tratti un videoclip. E nel finale, gli Scancanensi cantano live il loro pezzo d'esordio, Selling Jesus. Una performance strepitosa, con una Skin indimenticabile che con una croce bianca disegnata sul volto entra a far parte dell'iconografia del cinema. Cantante, modella, attrice, Skin ha una carriera a 360 gradi nel mondo dello spettacolo ed è anche un'apprezzatissima DJ. È una passione che coltivo da parecchio tempo. Ho iniziato a 17 anni, al college. Mettevo dischi alle feste ed ero molto richiesta. Portavo la mia collezione di vinili, Cure, Led Zeppelin, Rolling Stones, gruppi ska e indie. Ho ripreso una decina di anni fa a casa mia. Si è sparsa la voce e da allora mi chiamano un po' dappertutto. E ci vado volentieri. Ora metto musica house, non sono una professionista, ma mi piace e spero di migliorare. Inquieta e costantemente in cerca di nuove sperimentazioni, Skin comincia a meditare una svolta solista. Siamo nel 2001. Gli Scancanensi hanno raggiunto la consacrazione mondiale con Post Orgasmic Chill del 99, che contiene alcuni dei loro pezzi più famosi. La vita è molto più difficile come artista solista, perché quando sei in una band hai il tuo suono. Perciò tutto si ferma lì. Devi solo suonare la tua canzone. Invece come solista ci vuole un sacco di tempo per crearne uno proprio. E così nel 2001 gli Scancanensi si sciolgono, dopo aver suonato in tour mondiali al fianco di Lenny Kravitz, Bad Religion e Rammstein, solo per citarne alcuni. Due anni dopo Skin pubblicherà Fleshwounds, il suo primo album da solista. Ero stanca, anzi esausta della vita che facevo. Essere negli Scancanensi è stata un'esperienza fantastica, ma non avevamo un minuto di tempo per noi. Il gruppo ti assorbe e non ti fa pensare ad altro. E io a un certo punto ho capito che volevo migliorare la mia scrittura, diventare più articolata nel linguaggio musicale e condurre un'esistenza meno folle. Da solista è l'opposto. Sono il dittatore, decido io in totale autonomia. Lo so che sembra molto poco di sinistra, ma voglio dire, insomma, se sei da solo, la cosa più difficile è che non puoi dare la colpa agli altri per i tuoi errori. Le responsabilità ricadono tutte sulle tue spalle. Negli ultimi 10 anni la mia vita è cambiata in meglio. Ho imparato molte lezioni sulla mia pelle e ho capito ciò che conta davvero. Quando sei giovane, povera e ti manca tutto, cerchi il successo a ogni costo. Anzi, ne vuoi sempre di più, finché ti guardi dentro e senti che non sei felice. Allora ti rimetti in gioco e scopri che le cose più importanti sono avere qualcuno con te e trovare il tempo per fare le cose che ami, per gli amici, per la famiglia e la musica, ovviamente, ma da un altro punto di vista. Gli anni 2000 cominciano da sola per Skin, da sola dal punto di vista musicale perché si sciolgono gli Skankanensi e da sola dal punto di vista emotivo, perché la ragazza cresciuta a Brixton esce da un amore che la fa soffrire moltissimo e che la costringe a rimettersi in gioco ripartendo da zero. Ho passato tanto tempo in giro per il mondo. Ora il mio sogno è la stabilità. Una bella casa con un giardino, un nido tranquillo e la persona che amo al mio fianco. I magnifici destini. Ai magnifici destini siamo nel 2001 e Skin, dopo il successo esplosivo con gli Skankanensi, ha appena iniziato la sua nuova carriera da solista. È più grintosa che mai, arrabbiata, politicamente impegnata, coinvolta in battaglie che la appassionano in difesa delle minoranze, dei diritti dei neri e delle donne. Ha lavorato moltissimo per produrre il suo primo album, continuando a scrivere e a provare per ottenere il massimo. Ho riempito di canzoni 5 CD. Poi li ho dati ai miei produttori e ho detto: aiutatemi a scegliere. Alla fine le migliori erano le prime che avevo scritto. Avevano più energia, più forza al loro interno ed erano anche più complesse. Mi sentivo prosciugata per quanto avevo dato. Skin è davvero poliedrica. Pubblica Flash Wounds, che raggiunge il 6° posto in Italia ed entra nelle classifiche di tutto il mondo. Si esibisce in tutta Europa introducendo artisti amici come Robbie Williams e Placebo. Partecipa come attrice nel corto drammatico intitolato Hideous Man, scritto, diretto e narrato da John Malkovich. E canta al 1° maggio in Piazza San Giovanni, mandando in visibilio decine di migliaia di persone. Skin ama l'Italia in modo particolare e non a caso ha scelto di sposarsi vicino a Trento. In Italia ha tenuto concerti, si è esibita in DJ set e ha lavorato, per esempio, con i Marlene Kunz. Lavorare con Cristiano è stato fantastico. I Marlene Kunz sono bravissimi. Sono stata onorata di fare con loro la canzone che scrivo per te. Hanno avuto un grande successo in Italia. La canzone è stata in classifica diverse settimane, ma io penso che potrebbero avere un successo internazionale, a livello molto più alto. E così li ho chiamati per fare Take Me On. Li ho chiamati e gli ho detto: potete venire qui domani. Abbiamo provato il pezzo in un giorno. Il giorno dopo abbiamo registrato. E la sera ci siamo ubriacati. Siamo andati prima a cena fuori e poi in un locale gay a Hoxton, a est del centro di Londra, dove c'è pieno di posti carini. Tutti i miei amici mi chiedevano di loro: chi sono i tuoi amici? 3 ore dopo erano in mezzo alla pista a saltare per tutta la discoteca. È stato davvero divertente. I Marlene Kunz sono quelli che Enrico Brizzi ha definito l'unica vera rock band italiana. Mescolano il noise rock con la vena cantautorale e uniscono l'apprezzamento di una nicchia di fan appassionati alla curiosità del grande pubblico, per il quale si sono presentati a Sanremo nel 2012 duettando con Patti Smith in Impressioni di settembre della premiata Forneria Marconi. L'incontro con Skin avviene nel 2000. Colpo di fulmine, lei canta con loro la canzone che scrivo per te, una meravigliosa ballata che grazie a lei va oltre i confini nazionali. Questa è la canzone che terzo magnifico incontro di Skin è un uomo che è già nella sua vita dagli inizi degli anni 90. Si chiama Len Aaron ed è un paroliere. Ha scritto canzoni per gli Scancanensi e la pantera nera del rock lo rivuole con lei durante la sua carriera da solista. Quando ho cominciato da sola, volevo farcela senza gli Scancanensi, ma avevo bisogno di un punto di riferimento. E così ho cominciato a scrivere da sola, ma poi ho chiamato Len, che mi conosceva già bene. Sicuramente per me era importante una ricerca su me stessa. Volevo essere più comunicativa, raccontarmi. Len Aaron, anche lui inglese, ha cominciato la sua carriera come chitarrista a Londra alla fine degli anni Ottanta. Poi, pur continuando a suonare, ha cominciato a scrivere sempre di più per gli altri. Non solo è autore di canzoni, ma anche di intere colonne sonore e di musiche per videogiochi. Di fatto, lavora con Skin fin dall'inizio degli anni 90. Si devono a lui, tra i molti testi di successo degli Scancanensi, anche le parole di Secretly, la ballata romantica dal sapore dolce e amaro, che entra a far parte della colonna sonora di Cruel Intentions. Ehi, è splendida la maglietta che indossi. Grazie, me l'ha portata mio padre dall'Australia. Come vanno le cose laggiù? Piuttosto bene, direi. Sebastian! Skin ha successo anche da sola, senza gli Scancanensi. Tecnicamente forse non ha bisogno di loro. La sua fama la precede e non si tratta nemmeno di una questione di immagine. Eppure, poco alla volta, i ragazzi della band cominciano a mancarle. Per carità, il tutto si era chiuso bene, in amicizia, senza rancori. Non c'è mai stata tensione tra noi. Mark e Cass sono anche venuti a vedermi al mio primo concerto londinese. Alla fine eravamo tutti commossi e un po' scossi perché avevo rifatto dal vivo qualche vecchio pezzo degli Skank. Io farò sempre parte degli Skank. Per esempio, non potrei mai rinunciare a fare Follow Me Down. Nel 2008 cominciano le voci di una reunion degli Scancanensi, auspicata da molti fin dai tempi dello scioglimento ufficiale. Mark Richardson conferma la notizia in un'intervista per il Drama Magazine, numero di novembre 2008, riferendo che il gruppo avrebbe intenzione di realizzare un best-of con nuovo materiale. Ace inoltre pubblica una nuova pagina ufficiale per la band su MySpace. Skin, su richiesta degli intervistatori, alimenta le speranze. Non abbiamo mai fatto una raccolta dei migliori pezzi. Ci abbiamo pensato tante volte, ma solo ora abbiamo il tempo e la voglia di farla. Conterrà nuove canzoni e si potranno gustare alcuni remixaggi, dal rock al rave, fino al dubstep. Tutti molto eccitanti. Skin ci ha provato a fare da sola e ha dimostrato di potercela fare. Adesso non le interessa più, vuole tornare in famiglia, al calore del backstage coi ragazzi, al gusto della condivisione, nella buona e nella cattiva sorte, come nei matrimoni. Il 14 settembre 2009 esce il singolo Because of You, l'inizio di una nuova vita ancora insieme, in giro per il mondo a fare concerti. Skin, a 45 anni, è più bella e tosta che mai. Quella rabbia che si porta dietro da Brixton ce l'ha ancora. Solo è riuscita a incanalarla nella musica, che è parte di lei. Non rinuncerò mai a cantare con l'anima. Me lo diceva sempre la mia maestra. Ricordati che la voce è connessa allo spirito e al cuore. Non cantare mai senza cuore. È quello che cerco di fare. Faithfulness distracts me from my ever-changing tastefulness. My mouth upon the richest tongues I run for this. Static at the same time, but